Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, 21 e 5 minuti primi di questo martedì 27 dicembre del 2011, ancora Blu Radio Sera, ancora interviste e live da queste frequenze. E una buona serata vi arriva da Flavio Bilato e un'altra ancora da Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, noi avevamo promesso ai nostri ascoltatori di avere l'ennesimo showcase acustico, concertino live in forma mini, diciamo, certo, per presentazione di dischi. In realtà, come succede nel bello delle dirette, ogni tanto qualcosa non può andare sempre per il verso giusto. Dovevamo avere come ospite in studio Daniele Ronda per presentare Da Parte in Folk, il suo ultimo lavoro, però diciamo, essendo lui febbricitante, ha preferito approfondire telefonicamente questa serata e quindi gli diamo il benvenuto. Buonasera Daniele. Ciao, buonasera. Buonasera Daniele. Allora, da dove partiamo Daniele? Daniele Ronda è un folk club o folk club, se vogliamo pronunciarlo all'italiana, comasca, lombarda o se vogliamo pronunciarla all'inglese. Io direi in piacentino, visto che io sono di Piacenza, visto che canto e scrivo in dialetto piacentino, direi, sì, che piacentino è forse il linguaggio, l'accento più giusto da utilizzare. Comunque è folk club. Folk club, ok. Allora, Daniele Ronda con questo suo nuovo lavoro. Daniele Ronda, che è stato per anni autore di brani famosi di successo per altri e che adesso ha deciso di, come dire, fare un giro di boa e tornare indietro e presentare, diciamo, i propri pezzi. Guarda, in realtà succede questo, quando si lavora per un altro artista, per un altro interprete, per un altro cantante, si fa un lavoro un po' simile a quello del sarto, no? Nel senso che tu devi sì creare un vestito che abbia anche il tuo stile, devi metterci del tuo, ma quando chi lo deve indossare non sei tu, devi assolutamente adattarti a chi poi lo porterà, no? In questo caso chi canterà la tua canzone. Succede che questo è un lavoro molto stimolante, di grossa ricerca, nel senso che quando un personaggio, come può essere nel mio caso Neko, come può essere Mietta, vanno a cantare una tua canzone, ovviamente tu vai a ricercare quelli che sono le loro prerogative, le loro sfaccettature, i loro stati d'animo, le loro particolarità. E quindi, ti ripeto, è un lavoro di grossa ricerca e di grosso stimolo. Però non puoi essere sempre completamente te stesso, nel senso non puoi sempre fare quello che senti poi tu veramente dentro al 100%. Questo non significa che rinnego, anzi assolutamente, le critiche che ho scritto per altri continuano a darmi enormi soddisfazioni, però succede che io avevo bisogno di dire qualcosa direttamente, di dirlo nel mio modo, di dirlo con i miei vestiti, con i miei suoni, con gli strumenti che volevo io, con le parole che volevo io, perché spesso, sai, può succedere che io possa scrivere una frase per cui tu puoi non essere d'accordo, per cui tu puoi non sentirti, puoi dire quella parola lì, io non la direi, no? Ed è naturale, è normale, perché ognuno per fortuna ha il suo stile, il suo modo di anche di comunicare nel bene e nel male. Giustamente quello che hai detto, è un recensore, giustamente ha scritto, ti sei allontanato da quel ruolo dimostrando un carattere veramente forte. Sì, qualcuno pensa che addirittura all'inizio, non capendo qual era la situazione, non capendo la differenza fra i due lavori, ha detto che non ero magari stato coerente. In realtà non è assolutamente così, perché perché a questo punto io sto facendo un po' un lavoro, tra virgolette, diverso, sto facendo una cosa, sto parlando io adesso, veramente, direttamente, quindi faccio quello che sento e faccio, quindi io sono più forse d'accordo, senza prendermi meriti, però sono più forse d'accordo sul discorso del carattere, magari, sai, comunque parlo io, dico quello che sento, racconto un po' la mia storia. Certo, allora vediamo di conoscere subito e meglio chi è Daniele Ronda. Abbiamo qui tra le mani il tuo disco e direi proprio di cominciare con quello che è il dialetto tuo, il dialetto piacentino. Prima mi era sfuggito un dialetto comasco, però poi faremo anche riferimenti con un altro tuo amico, no? Ho già capito, capito dove vuoi andare a parlare. Sì, sì, ma avevo cominciato troppo presto. Ok, comunque, vabbè, allora Daniele, se sei d'accordo, noi cominciamo esattamente con quella che è la traccia numero uno, che un po' anche ti descrive in questa tua nuova versione folk. Quindi assolutamente. Spero di pronunciarlo correttamente, Daniele. La neve è il sul. La neve è il sul, perfetto. Sei piacentino anche tu. Sono piacentino. Va bene, allora ce l'ascoltiamo, poi torniamo insieme a commentarla qui insieme a Daniele Ronda. Ci sono. Blu Radio Sera. Sono vetro e con la terra che mi aspetta a me, ma culti le ho sbagliate, am su un vuteidre ed ho vista il sul e t'ho vista te. Acqua te sol mondo, giuro in quel caram, par tu che mi al fondo. Acqua te in me man, e la mia testa dura, acqua te la pagura. Sum la guerra e la pelle, sum l'odi e l'amor, sum la pelle del sangue, sum la neve del sul. Se ti vuoi sparisca, come vai ti va pur, perché in fondo me su acqua, te va bene e me e giù, sei sa una farmeda, cale tu signè, calciaman da stai. Ma le la mia vita, anche se adesso, cate te la mia vita. Sum la guerra e la peste, sum l'odi e l'amor, sum la pene del sangue, sum la neve del sud, e te tvoca sparisca. Come vai ti va pur, perché in fondo su acqua te ma bes e me me. Magnar altai, che se la porta della notte, farmarò alte, e sarà pena parme. Magnar altai, ma des, sum la guerra e la e te fuca sparisca, come vai viva pur, perché in fondo su acqua te ma bes e me me. E te fuca sparisca, come vai viva pur, perché in fondo su acqua te ma bes e me me. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato il primo pezzo tratto da parte in folk, Daniele Ronda con The Folk Club a cantarla nel suo dialetto piacentino, La neve è il sul, quindi la neve è il sole, proprio scritta da Daniele Ronda, che abbiamo con noi in collegamento telefonico per commentarla. Allora Daniele, come è nata questa La neve e il sole? Guarda, una particolarità di questo pezzo è che nel disco, ed è l'unica canzone in dialetto che io ho tradotto in italiano, ma nel disco, se noti, è la prima traccia e poi sì, c'è l'ultima che è La neve e il sole, sì, che appunto è la sua versione in italiano. È l'unico pezzo per ora che ho scritto in dialetto che ha anche la versione in italiano. Gli altri che ho scritto in dialetto sono solamente in dialetto, quindi... così, una particolarità sul pezzo. Anche perché diciamo che la musica folk va molto a braccetto con quella che è, diciamo, la lingua, il dialetto, diciamo. Sai perché? Perché è una cosa, secondo me, che ti riporta un po' alle radici e alla tra virgolette tradizione, anche se è una tradizione rivista da me, che comunque sì, ho 28 anni e vivo nel 2011 e 2012 ormai dovrei dire, ma mi dovrò abituare. E la cosa particolare è che io ho scoperto di amare la mia città, la mia terra e così anche la sua lingua, che è il dialetto piacentino, un po' più avanti negli anni, nel senso che per capire di amarla, di esserci così legato, ho dovuto staccarmene. Io mi sono trasferito per un periodo a Milano per questioni di lavoro, più che altro perché mi sembrava che fosse più comodo e mi sembrava che Milano desse degli sbocchi e delle possibilità particolari. In realtà poi, stando là, mi sono accorto che non vedevo l'ora che arrivasse il fine settimana per tornarmene a Piacenza, quindi a posto di voler vivere la metropoli, il weekend nella metropoli, volevo vivermelo nella mia città, nelle strade in cui sono nato, in cui ho vissuto, in cui ho sempre girato. Anche ed perché, ho capito, sì, ho avuto questa sorpresa qua. Voglio dire, anche perché a Piacenza si vive molto meglio che non a Milano, eh? Si vive in maniera diversa, sai cos'è? Quando tu vivi una città di questo tipo, poi certe cose, certe abitudini, certi stili di vita ti mancano un po'. Non so, è una dimensione diversa, anche se poi, guarda, io sono sempre stato innamorato degli Stati Uniti, ti faccio un esempio, sono stato per un periodo a Los Angeles, dove praticamente ho vissuto, non sono andato in vacanza, sono stato proprio un periodo a fare la vita da, non so se si dice, Los Angelino o roba del genere, e mi sono reso conto che comunque sì, anche la più grande metropoli in realtà è un insieme di tanti piccoli paesi, cioè io rincontravo le persone per strada, andavo nei locali, nei bar dove poi avevo conosciuto le persone e quindi le rincontravo, quindi credo che un po' la storia della metropoli sia un po' un mezzo mito, noi siamo fatti per vivere in realtà tra virgolette a misura d'uomo, poi il web, tutte queste cose ci permettono di spaziare, di viaggiare un po', ma alla fine la nostra realtà è quella legata a una realtà a misura d'uomo, no? Cioè di vivere anche delle abitudini, delle cose, poi è bello viaggiare, è bello scoprire, è bello ricercare, però credo che la casa, per casa non intendo solo dove viviamo, ma proprio la casa, nel senso le cose che ci riportano alle origini, siano per noi fondamentali, anche perché se non sappiamo da dove veniamo poi è molto duro capire dove vogliamo andare. Tu hai fatto una considerazione, giustamente il pezzo andava al telefono fra noi, mi sembra, non in diretta, che nonostante che sia in dialetto, che tu canti in dialetto, hai superato le barriere, il dialetto non provoca delle barriere, anzi la gente ti ascolta lo stesso, anche se chiaramente il dialetto piacentino non fa parte di determinate persone. Assolutamente sì, guarda, ti dirò di più, io ho capito una cosa importante, c'è molta gente che ci vuole far credere che le diversità che abbiamo, cioè noi in Italia siamo forse uno dei paesi più ricchi di diversità, perché io mi vedo che mi sposto di 10 km e già l'accento cambia, già c'è il piatto diverso, già c'è un'usanza diversa, una festa diversa, e noi quindi siamo ricchi di queste diversità, molti ci vogliono far credere che queste diversità servano a dividerci, in realtà io sono convinto che siano un potenziale enorme che anzi unisca le persone, e me ne accorgo tutte le volte che vado in giro a suonare, che suono in dialetto, che suono la musica folk e la gente sente, sentendo anche un dialetto diverso, sente comunque il legame con la propria terra, quindi è una cosa che mi fa tanto piacere. È la musica popolare che unisce, secondo me, al di là del dialetto. Questo bravissimo, è fondamentale. Bene, allora stiamo piacevolmente conversando con Daniele Ronda, ci auguriamo di averlo presto anche qui nei nostri studi per sentirlo con la voce dai nostri microfoni. Mi piacerebbe tanto. E poi, va bene, comunque... Parlare di musica è bello, farla ancora di più. Ecco, benissimo. E allora ti facciamo prendere fiato, Daniele, perché proporrei due pezzi, uno di fianco all'altro, per conoscere ancora di più quello che è il tuo ultimo lavoro, che si intitola Da parte in folk, quindi direi di ascoltare con ordine Cenerentola e poi ancora Tre Corsari. Va benissimo, a d'accordo. Dopo. Blu Radio Sera. messo un'ora a prepararsi, ma soltanto per sentirsi bella. Stende quei colori sulla faccia, quasi a disegnarsi sulla faccia l'anima. Sembra non pensare ai suoi problemi, sembra averli chiusi tutti in una gabbia di cartone. Che tra poco si aprono le danze, si sospenderà la vita per toccare il paradiso. Lui la fissa sotto quelle luci come già gli appartenesse, ma non ha capito niente. Lui sta lì e non sa che lei vuole soltanto ballare, e lei non è lì. Chissà dove, ma tra poco dovrà ritornare. In mezzo a tanta gente, in mezzo a facce sconosciute che non sanno dire niente. È come Cenerentola, ma con i jeans e lo stivale penso proprio non lo possa perdere. Ma lei non sta cercando proprio niente, proprio niente. Lui non ha capito proprio niente. Lui sta lì e non sa soltanto ballare, e lei non è lì. Chissà dove, ma tra poco dovrà ritornare. Ci ha messo un'ora a prepararsi, ma soltanto per sentirsi bella. Blu Radio Sera. Come corsari sulle rotaie, dentro quel treno del venerdì sera, più o meno tutti venuti dal fango per imparare a star sulla strada. Qualcuno ha studiato perché lo doveva, qualcuno ha comprato cravatta e giornale, qualcuno ha provato a indossare la divisa ed ha imparato soltanto a sparare. Tre deficienti che si specchiano al fiume, lì per rubargli soltanto un riflesso, ma non si dimentica l'acqua di casa, per quanto la odi ti manca lo stesso. Qualcuno ha sfilato per una bandiera, un altro ha venduto se stesso e il suo cuore, qualcuno ha stanato, inseguito e sparato, ma poi si è voltato e a scappare era lui. adesso che votano, guidano e fumano e non hanno ritardi da giustificare, si sentono padroni di quel pezzo di ombra tra il marciapiede e il Don de Milan. E forse per noi è una chiesa troppo grande, e forse per entrarci quel che sei non basterà, e bisognerà imparare una preghiera complicata, e bisognerà imparare una preghiera di città. Per sta bella madunina che non brilla più da un po', troppo stanca per ridarmi la fiducia che non ho, che non ho più, che non ho più, che non ho più, che non ho più, che non ho più. E così è andata come è andata, o forse come doveva andare, tre uomini cuori, tre poveri illusi, tre vite incrociate su trame a cucire, e adesso che sanno cos'è una prigione, e il buio e il silenzio non li fan più dormire, fanno un brindisi alla buona condotta tra il marciapiede e il Don de Milan. Ed ora è tutta nostra quella chiesa troppo grande, e finalmente per entrarci basterà quello che sei, quella preghiera che ricordi al tuo santo in paradiso, una candela a San Vittore per non rivederlo più. E sta bella madunina che ora brilla ancora un po', ha la forza per ridarmi la fiducia che non ho, che non ho più. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo ascoltati due canzoni, una di fila all'altro, per capire qualcosa di più di quella che è la musica di Daniele Ronda, il Folk Club. Allora, abbiamo ascoltato Cenerentola e Tre Corsari e abbiamo in collegamento telefonico Daniele Ronda proprio per parlare delle sue canzoni. Buonasera ancora, Daniele. Ciao, allora forse è saltato fuori quella cosa di cui mi volevi parlare prima. Sì, sì, però cominciamo dalla traccia numero due, no? Okay. Questa Cenerentola. Sì. Cenerentola che è il ritratto di una fanciulla però vista nei tempi moderni, visto che non ci sono scarpette di cristallo, ma c'è uno stivale che invece non si vuole levare. No, non lo perderà lo stivale, ecco. Semplicemente perché è una ragazza che ha tutti i problemi e i casini che possono saltare addosso a una persona oggi, e che va in un posto, io ho immaginato che fosse una serie di quelle feste dell'unità, quelle feste con le salamelle, il vino rosso, la musica, la banda, la balera, la pista, ballo. Sì. Ho fatto un esempio nel senso che per dire è la classica, sai, noi in Emilia Romagna è la classica festa, no? Sì, sì, certo. E ho provato a immaginare che arrivasse questa ragazza e che non avesse alcuna intenzione di essere marpionata, come si dice, né di essere disturbata da nessuno, ma vuole solo ballare, sfogarsi, ballare, dimenticarsi tutto quello che le è capitato di negativo durante la giornata, mentre ci sarà il solito bulletto di paese che la fisserà tutta la sera credendo di avere qualche possibilità, ma poi se ne tornerà a casa lei sola, bella come è arrivata la festa, e anche lui se ne tornerà a casa solo, purtroppo con la coda in mezzo alle gambe. Anche perché tu dici, lei non sta cercando proprio niente, lui non ha capito proprio niente. No, proprio. Vuole solo ballare lei, e vuole solo ballare. Maurizio. Benissimo, sì, una metafora. Musicalmente, molti strumenti acustici, Daniele, assolutamente acustici. quasi tutti sono strumenti acustici, nel senso che è un disco assolutamente suonato, nel senso che noi facciamo tanti concerti, tanta musica dal vivo, e volevo che fosse un disco tra virgolette riproducibile dal vivo, è un disco vero, nel senso che non mi piaceva avere sul palco troppi trucchetti, troppe mascherine, insomma bisognava prendere in mano la chitarra, prendere la batteria, prendere il basso e suonare, e doveva avere l'effetto insomma del disco, se non ancora più carico, quello che ti dà l'emozione della musica dal vivo, no? Quindi è stato quasi un buono la prima nell'incisione, oppure no, Daniele? Sì, nel senso che avendolo suonato il Folk Club, noi avevamo già suonato tanto queste canzoni dal vivo, quindi in realtà quasi senza volerlo, ma è stata una sorta di buona la prima, nel senso che abbiamo tipo basso e batteria avevano suonato insieme, per determinate esigenze ovviamente di spazi, di studio, così abbiamo ovviamente separato un po' le registrazioni, ma in realtà avremmo potuto suonarlo anche tutti insieme, perché avevamo talmente suonato tanto dal vivo e ce l'avevamo talmente dentro, insomma, questo disco che poteva essere anche un buono alla prima. Sì. Sì, tu che parti dal pianoforte, poi ti sei dedicato al canto, ma partivi dal pianoforte. Sì, ho fatto il conservatorio. Esatto. Pensa che all'inizio l'ho quasi, non dico odiato, no, però l'avevo preso un po' come se fosse una scuola. Io a scuola non sono mai stato, sono sempre stato un po' fugace. E poi ho scoperto invece ultimamente soprattutto quanto mi sia servita in realtà quella preparazione lì, soprattutto il solfeggio che dal quale veramente mi guardavo bene di studiare, invece in realtà poi mi è servito tanto, infatti ringrazio i miei insegnanti di solfeggio che mi hanno passatemi il termine, cambiato tanto, ma poi li ringrazio perché mi è servito veramente molto, cioè oggi quando ho davanti una parte e la so capire di cosa si tratta, o quando devo lavorare in studio o fare un accordo e so insomma di cosa stiamo parlando, insomma ripenso a volte a loro e dico grazie, insomma. Anche perché molte volte, Daniele, si pensa anche agli amici che ci sono intorno, che se sanno che suoni il pianoforte, che sei dedicato a un'attività classica piuttosto di vivere il vigore del momento, insomma ti prendono anche un attimino in giro. Guarda, io in alcuni periodi non ho avuto questo problema, c'è stato un periodo soprattutto sull'adolescenza avanzata, cioè nei 17-18 anni, dove mi ero abbastanza chiuso, fra virgolette, me stesso, proprio per dedicare tutto il tempo che avevo e tutta l'energia che avevo a quello che amavo, che era la musica. E in quel momento lì non ci sono state non poche difficoltà, devo ammetterlo. Perché? Ma perché ovviamente un ragazzo magari che non capisce in che direzione stai andando, inizialmente può prendersela quasi a male, o può prendere come dire, ma perché lui si stacca da questa cosa qua, perché chi si crede di essere. In realtà poi pensa che ho incontrato tanti amici con cui all'epoca magari avevo avuto qualche problema anche per questa ragione, che oggi mi hanno detto che hanno capito il perché, e quindi magari sono persone che mi seguono e vengono a sentire, quindi la cosa poi mi ha fatto tanto piacere. Bene, adesso quella domanda che doveva essere fatta circa 30 minuti fa, no? Che abbiamo posticipato. Pronto, scusami Daniele. Che ti era scappata. Sì, mi era scappata. Avevamo parlato di Comasco in un certo senso. Sì. E abbiamo ascoltato la traccia numero 3, dove ci sono tre corsari e dove c'è un featuring molto importante, un personaggio che nell'ultimo periodo si sta facendo ascoltare non solamente dai Comaschi, ma sta avendo un buon risultato anche in tutta Italia. Stiamo parlando di Davide Bernasconi, in arte Davide Van der Sfross. Assolutamente sì. Guarda, io innanzitutto non si parla di Comasco, ma di Laghe, per precisione, Laghe, sì, che è addirittura un dialetto di una zona del lago di Como, quindi io sono sempre stato un grande fan di Davide, ancora prima di che lui arrivasse al successo nazionale con Sanremo, l'ho sempre seguito, ho tutti i suoi dischi, conosco molto bene tutte le sue canzoni, la sua discografia, e quindi puoi immaginare un fan che già ha la possibilità di diventare magari amico, perché io l'ho conosciuto e siamo diventati amici, che poi gli fa sentire, come è capitato a me, una traduzione di una sua canzone che si chiama 40 Pass, quasi per gioco, E poi mi sento dire da Davide, cavoli, mi piace, è una figata che la cantiamo insieme. Poterla registrare, averla in un mio disco, puoi solo capire cosa significa, cosa sia significato, insomma, per me. Credo che sia un gioiellino che impreziosisce tanto questo mio lavoro. Come mai Tre Corsari, Daniele? Perché lui parlava di queste, di questi tre personaggi, nella versione originale in dialetto laghe, di questi tre personaggi che dal paese si trovano nella grande metropoli, quindi mi sono anche tra virgolette un po' rivisto. Loro vengono risucchiati però dalla grande metropoli e da questo clima di pseudo libertà, di questo clima di pseudo possibilità infinite, e risucchiati da questa cosa si trovano a fare delle cavolate grosse, la pagano con la galera addirittura. Questa cosa li segnerà per tutta la vita, quindi sarà un prezzo enorme da pagare per la loro, per aver acquisito dell'esperienza, e poi capiranno insomma quello che hanno fatto, si porteranno dietro le cicatrici, i graffi, perché c'è una frase che dice col buio non riescono più a dormire, quindi immagino un adulto che ha paura di dormire col buio perché ha vissuto delle esperienze traumatiche come possono essere la prigione e tutto quello che ne concerne. Quindi i Tre Corsari sono questi qua, sono tre battaglieri che alla fine comunque continuano a lottare su questa nave che invece di essere un galeone è il treno che li porta dal paese al centro di Milano. Poi però fanno un brindisi alla buona condotta tra il marciapiede e, come dice Van der Sfross, è il Duomo di Milano. Sì. Molto bella anche questa canzone, molto appassionata così da come l'abbiamo sentita. È talmente tanto appassionata che per un mese l'abbiamo fatta sentire, Davide, assolutamente. Volevo solo chiederti una cosa, la melodia è stata una condivisa fra voi o è stata una tua costruzione totale, poi Davide l'ha sentita e ha condiviso questa costruzione? No, in realtà la melodia è quella di 40 Pass, quindi è quella di questa canzone, addirittura che nasce pianoforte e voce, perché nel disco di Davide Pica è inclusa, è una traccia di questo suo disco pianoforte e voce. Io poi ho riadattato il testo, che molti lo chiamano una traduzione, in realtà anche Davide non la chiama una traduzione, perché ti assicuro che è molto diverso l'italiano dal dialetto laghe, anche se ti puoi percepire delle parole però e puoi capire anche tutto, però poi tradurla e adattare a una musica un testo in dialetto, ci sono dei modi di dire, che mi diceva, a me mia nonna a volte mi sgridava con dei modi di dire in dialetto che in italiano non hanno lo stesso significato, e quindi tradurre una canzone in dialetto è un po' come tradurre lo slang inglese, no? Ci sono dei modi di dire che tradotti non hanno quel significato lì, e quindi è un vero e proprio, credo, adattamento, no? Quindi non hai cambiato niente della melodia, assolutamente. Poi per forza ricantando me la sono un po' ricucita addosso, però la canzone è quella lì. Infatti molti sono incuriositi e si vanno a sentire la versione originale, oppure molti fan, addirittura molti fan di Davide mi hanno contattato e mi ha fatto piacere perché hanno detto che ho rispettato quello che secondo loro era il significato, il valore della canzone, quindi questo mi ha fatto davvero tanto piacere. Benissimo, ai nostri ascoltatori diciamo che stiamo conversando seppur in maniera telefonica, ci auguriamo di averlo presto con noi nei nostri studi, Daniele Ronda assieme a Folk Club con questa Da Parte in Rock, il titolo del suo ultimo CD, sono 12 tracce davvero piacevoli. Allora Daniele, io direi proseguiamo con altri due pezzi per tornare a commentarli insieme, intanto ti lasciamo prendere fiato perché sappiamo che sei un po' febbricitante in questa serata, quindi va bene stare anche un po' tranquilli. Allora, io sono qua. Benissimo, allora ci ascoltiamo altri due pezzi, quindi partendo da Figli di Chernobyl per andare poi a Polvere di Sabbia e ritornare in diretta a commentarlo insieme. Ci troviamo tra poco. Blu Radio Sera. Affiderò quel freddo che non passa più. Legherò i giorni miei al filo dei pensieri tuoi e agli attimi di vita che vivrai. E se l'amore ora amore ti deve, se tocca a me non lasciarti cadere, e se provarci mi fa stare bene, sai, ormai, ormai lo so, sei tu la cura a tutto il male che ho, che c'è, sei tu. Se vuoi resterò a un passo dalla voce tua, perché tu senta quella mia. E ogni volta che ti vedo andare soffro di una paura sottile che mi spezza respiro e parole, sai perché, lo so, sei tu la cura a tutto il male che ho, che c'è, sei tu. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sopportare altre spiegazioni. sono rumori distorti, ma hai ragione tu, e adesso ne sei convinta, hai ragione tu, soltanto una spinta e cadresti giù, e pensi ancora che sarebbe Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavara. Stiamo ascoltando insieme delle tracce di un nuovo disco, a proporcelo è Daniele Ronda e Folk Club. Si intitola Da parte in folk. Abbiamo ascoltato due tracce. La prima si intitola Figli di Chernobyl, l'altra Polvere e sabbia. E abbiamo in collegamento telefonico con noi Daniele Ronda proprio per parlarci di questa sua musica. Allora Daniele, ancora buonasera. Ci Ciao. Sei? Ecco qua. Sì, ci sono, ci sono. Figli di Chernobyl, vede un'altra collaborazione importante. Sì, sì, assolutamente sì, è importante. Figli di Chernobyl ha una valenza doppia, cioè una doppia importanza per me, perché la prima, vabbè, è quella artistica, perché ho avuto la possibilità di duettare con Danilo Sacco, ormai oserei dire ex frontman dei Nomadi, perché sì, mi pare che l'ultimo concerto che farà con la formazione dei Nomadi sarà proprio domani sera, quindi è quasi ex frontman dei Nomadi. E la cosa che lo rende per me particolarmente importante questo pezzo è lo scopo per cui io e Danilo abbiamo cantato insieme, che è quello di aiutare questa associazione che si chiama Sole Terre, che si occupa di quei bambini ricoverati all'ospedale di Kiev perché malati di cancro. Pensa a te che si ammalano di questa grave malattia perché ancora a causa delle radiazioni emanate dalla centrale nucleare di Chernobyl, pensate, dopo 25 anni. Questi bambini qua non hanno i soldi per curarsi, non hanno i soldi per comprare le medicine, per pagare i dottori, per pagare le cure mediche, e quindi Sole Terre non solo paga loro tutto quello che serve per poter provare a guarire, per poter provare a proseguire la loro vita, che credo sia un loro diritto, ma gli permette anche, essendo bambini che arrivano da famiglie molto povere, di avere vicini i loro genitori, che sennò altrimenti dovrebbero lasciare il loro lavoro, dovrebbero lasciare la loro casa, e quindi Sole Terre dà loro degli alloggi vicino all'ospedale, in modo che loro possano avere, oltre alle cure mediche, anche la cura che può dare l'affetto della propria famiglia, che non è da meno assolutamente in una condizione di questo tipo. Certo, ricordiamo anche che per saperne di più su questa organizzazione, che come slogan ha strategie di pace, è www.soleterre.org. Grazie mille per aver dedicato un po' di spazio Sole Terre, perché è una cosa veramente importante. E il secondo pezzo che abbiamo sentito musicalmente era una, secondo me, una bella commistione tra folk e reggae. Cosa dici, Dani? Sì, è un rocksteady, in realtà. Esattamente, esattamente. Che può sembrare anche una sorta di tango. Ricordate Mao, le Grasnevere, qualcosa di quel genere là. Bravissimo, le armonie sono quelle di un tango magari, sì. E la fisarmonica e tutte queste cose qua. Ci piace giocare anche con queste sonorità, con queste ritmiche, con questi suoni che comunque sia, secondo me, riportano comunque sempre a quello che è il folk, riportano a quello che è una sonorità legata alla terra, quindi alla una sonorità molto sanguigna, quindi tutto quello che è sangue, terra, radici, per me, a me piace. Ma quando suoni dal vivo, gli strumenti elettrici, hai citato il basso, c'è solo il basso di elettrico oppure ci sono altri strumenti elettrici, c'è un po' di chitarra elettrica? Guarda, abbiamo spesso con noi anche un chitarra, perché ti spiego, il folk club è una roba particolare, non è una band normale, ma è un insieme, un gruppo di musicisti legati oltre alla passione per la musica in generale, soprattutto alla passione per la musica folk, e quindi noi arriviamo a suonare o in due, nel senso che magari sono io con il fisarmonicista o con il violinista, e arriviamo fino ad essere in 10 sul palco, quindi quando siamo in 10 si spazia dalla cornamusa, il violino, la fisarmonica, ma gli strumenti elettrici sono quasi sempre il basso e talvolta c'è una chitarra elettrica che magari segue dei pezzi come questo, dove senti sotto che c'è una ritmica in levare persistente o cose di questo tipo, oppure ci sono delle chitarre elettriche con lo slide che fanno del country, insomma, quindi la chitarra elettrica è assolutamente presente. Ovviamente non abbiamo quelle multi effetti, ma abbiamo un bel ampli, un bel Fender Twin vintage, una bella Telecaster, e insomma anche lì cerchiamo di rendere la cosa il più vera possibile, più sanguigna possibile. Certo, Daniele, chi ti ha aiutato in questo disco? Quasi tutti i pezzi portano solo la tua firma, però vedo tanti musicisti, quindi il folk club tutto unito per mandare avanti questo disco. Vogliamo ricordare anche i musicisti che hanno collaborato? Sì. Guarda, io sono uno che crede molto, nonostante tu mi dicevi i pezzi sono firmati, sono scritti da te, ed è vero, quando scrivo di solito io mi estraneo un po', quindi quella è una fase del lavoro, ma per portare poi un disco su un palcoscenico e per poterlo registrare c'è bisogno di tante persone. Intanto innanzitutto io voglio ringraziare il mio manager, che si chiama Johnny Malavasi, che ha sempre creduto in questo progetto, e direi che non vorrei esagerare dicendo che è un po' autore con me dei pezzi, perché spesso è lui che mi ha dato degli spunti di ascolti, mi ha parlato di certe cose che mi hanno comunque, che hanno arricchito anche quello che è il mio bagaglio, no? Dal quale poi attingo per fare le mie cose. E poi voglio ringraziare i musicisti, due pilastri portanti di questo folk club, che sono quelli che ci sono fin dall'inizio del progetto, che sono Carlo Raviola da Cuneo, che è il bassista, e grande Sandro Allario, fisarmonicista e tastierista del gruppo. Poi con noi hanno suonato Lorenzo Arese, batteria, Cristiaropoli, chitarre, Caterina Mentimoglio, i cori, le percussioni, insomma abbiamo dato. Poi il grande Davide Brambilla, che è fisarmonicista, trombettista e tastierista anche di Davide Van der Sfroot, il grande Federico Bianchi, fonico, che ha mixato tutto il disco, insomma è stato oltre che una... che bello artisticamente produrre questo disco, bello anche umanamente, perché si è creato una bellissima atmosfera. Un gruppo aperto alla Pogues, insomma, praticamente. È una sorta, sì, è una sorta di associazione a delinquere. Esatto. Basta prendere in mano un banjo, un mandolino, una fisarmonica, una chitarra e si può entrare a far parte del folk club, basta che ci sia lo spirito giusto, insomma. Benissimo, allora ai nostri ascoltatori di Blu Radio Veneto, ricordiamo che stiamo parlando con Daniele Ronda per la presentazione del suo lavoro, che si intitola Da parte in folk. Allora Daniele, se sei d'accordo, ascoltiamo ancora due pezzi del tuo disco, li ascoltiamo insieme e poi torniamo a commentarli per capire ancora qualcosa di più della musica di Daniele Ronda, anche se ormai perlomeno io e Maurizio abbiamo le idee chiare e speriamo lo abbiano anche i nostri ascoltatori. Molto volentieri. Benissimo, allora tra poco, Daniele. Dopo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. una stanza che va riordinata e un cuore che sembra da buttare via. È un'intera giornata in cui fare meno di esistere. Ma una pelle ed un'anima che per fortuna sono più testarde di me. E guardandomi dentro allo specchio non so fare a meno di ridere. E ogni passo è un bacio alla terra e ogni respiro all'aria. E ogni battito delle mie ciglia è una foto che scatta una vita passata. E non voglio versare una lacrima a chi l'ha buttata, perché l'ho cambiata. Ho ascoltato chissà quante storie cercando lo spunto per farmi la mia. E ha sprecato chissà quanto fiato per farmi ascoltare la grande bugia. Che il dolore fortifica il cuore e invece ti rende testardo e cattivo. L'ho capito io quando soffrivo. L'ho capito e pian piano cadevo. E ogni passo è un bacio alla terra e ogni respiro all'aria. E ogni battito delle mie ciglia è una foto che scatta una vita passata. E non voglio versare una lacrima a chi l'ha buttata, perché l'ho cambiata. Passo è un bacio alla terra e ogni respiro all'aria. E ogni vita che incroci insegna qualcosa alla tua. E non voglio rimpiangere il tempo che ho dato e non mi hanno mai reso, perché nel bene e nel male quel tempo è un regalo che ho speso. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Dimmi che ti costa farmi un po' di male, darmi una ragione che ti faccia odiare un po'. Prova a non pensare, libera l'istinto. Sono io il bersaglio, sono il bastardo. Puoi sputarmi addosso tutto il tuo rancore, tutte le parole che non riesci a dire. Studia una vendetta, metti a punto un piano, ma non torturarmi più col tuo perdono. Wow, cara, io sono stato una merda, nutrendomi del tuo amore sbagliato, ridando in cambio soltanto la finta parvenza di un uomo, cara. Sì, sono stato una merda. un senso di colpa meschino. E poi c'è il sorriso che ti ho cancellato, e il tuo cuore in mano, ferito e strappato. Oh cara, io sono stato una merda, nutrendomi del tuo amore sbagliato, ridando in cambio soltanto la finta parvenza di un uomo. Cara, sì, sono stato una merda, lasciando crescere per poi spezzare in assoluto la cosa più bella che si possa dare. Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato altri due pezzi di Daniele Ronda, il primo si intitola Ogni Passo, il secondo Cara, entrambi sono tratti dall'ultimo lavoro Da Parte in Folk, Daniele Ronda in Folk Club, e abbiamo Daniele Ronda in collegamento telefonico per parlare del suo lavoro e per parlare in particolare di questi due pezzi che ci siamo ascoltati, molto diversi uno dall'altro, uno una ballata delicata e sofferta e dall'altra parte invece un brano diciamo liberatorio, no? Perché in un certo senso sì, hai definito una certa cosa che musicalmente magari rendeva bene, un po' meno forse nella parlata. Guarda, in realtà per quanto riguarda il primo pezzo ha una storia particolare, sì. Nel senso che pensa te, guarda, il pezzo era suonato, c'era basso, batteria, chitarre, fisarmonica, quindi era arrangiato. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che c'era qualcosa che non ci girava come andava, tanto che se guardi nei crediti del disco c'è scritto arrangiato da Johnny Malavasi, che è il mio manager, sì. E non è un arrangiatore, ma ho voluto mettere questo credito che parla anche di lui, perché in realtà lui ci ha detto ma scusa, ma freghiamocene, c'era Lil Bill, Davide Brambilla, che appunto che ti dicevo, il tastierista di Davide Van Des Fros, e eravamo lì insieme e gli fa tirati giù gli accordi, provate a suonare col piano. Lui si è messo a suonare il piano, io ci ho cantato sopra, l'ho voluta registrare, io di solito tendo comunque sia mal che vada a registrare le cose, questa è veramente stata buona a prima della prima, perché la prova che abbiamo fatto è entrata nel disco, è diventata il disco, quindi ci ha convinto subito così, girava così, ci piaceva così, ed è entrata proprio nell'album così com'è stato. Poi abbiamo aggiunto una traccia di violino dopo, ma il pianoforte e la voce sono quelle lì. E invece per quanto riguarda Cara, ecco, tornando al discorso anche del dialetto, ci sono cose che secondo me puoi dire rendono veramente se dette in un determinato modo. Quella cosa lì secondo me in quel momento lì, con quella modalità lì, andava detta così, e quindi ho deciso di un po' di fregarmene, insomma, magari qualcuno può rimanerci anche male perché per la parolaccia, però secondo me in quel caso lì era giusto dirla in quel modo lì. A proposito di gruppo aperto, io ho letto che hai fatto una presentazione alla grande qualche mese fa al Teatro Presidente a Piacenza, che è un luogo importante per Piacenza. Assolutamente teatro, sì. Teatro, una stagione di 40 spettacoli, non solo teatro, non solo musica, classico, un po' di tutto, vero? È così? Sì. Guarda, è stato il nostro primo concerto teatrale, è andato benissimo, un sacco di gente, siamo anche lì un'altra bella sorpresa, e è stata un'emozione, perché suonare in un teatro ha un'atmosfera pazzesca, particolare. Poi per il genere che facciamo noi è stato veramente emozionante, è stata una di quelle esperienze che ho detto, forse mi sono sentito come in un sorta di mio habitat naturale, no? E quindi mi è piaciuto molto, tanto che abbiamo deciso di ripetere una cosa simile, anche se molto molto ambiziosa, nel senso che il 31 di marzo faremo un concerto al Teatro Municipale di Piacenza, che è un po' una scala un po' più piccola, in miniatura, è un gioiello, è bellissimo da vedere. Stiamo organizzando questo concerto dove io presenterò anche un sacco di canzoni nuove che faranno parte del mio disco nuovo, e guarda, sono già emozionato adesso. Sarà un insieme di tante cose, di folk, di dialetto, ci saranno anche degli artisti non per forza legati alla musica che parteciperanno, come degli scultori, dei poeti, quindi sarà un insieme di tante cose, ma credo verrà una cosa bellissima. Allora sì, scusami Daniele, ti ho interrotto. E ci saranno tra l'altro alcuni ospiti dei quali ancora non faccio i nomi, ma non è complicatissimo capire che possa essere. Vabbè. Allora ti strappiamo già una promessa, visto che col primo disco abbiamo avuto il collegamento telefonico, con il secondo, con questa sorpresona di cui ci stai anticipando già qualcosa, vorremmo esserne partecipi con te qui nei nostri studi. Assolutamente sì, e vi dirò di più, vi inviterò anche personalmente a esserci, quindi vi voglio vedervi nelle prime file ad ascoltare il concerto. Bene, allora ricordiamo anche il tuo sito internet, Daniele, che è danieleronda.it. Sì. Poi noi seguiamo molto tutta quella che è la rete del web, nel senso che c'è Facebook, Daniele Ronda, poi c'è la Daniele Ronda Community, che non è un fan club, ci tengo a precisarlo, perché sai, il fan sta un po', io credo che non sia tanto epoca di star in questo momento, nel senso che bisogna rimboccarsi le maniche e farsi un bel mazzo, e quindi no, non è l'epoca di fare tanto le star, diciamo, quindi quelli, i ragazzi che fanno parte della community sono degli amici, guarda, ti faccio solo un esempio, noi alla fine di ogni concerto abbiamo la possibilità di avere uno sponsor che ci dà il vino, e quindi ci danno bottiglie di vino in quantità, e finito ogni concerto noi ne apriamo quante ne servono, offriamo davvero un bicchiere di vino a tutti, quindi ci mettiamo lì, chiacchieriamo, ognuno parla dice quello che vuol dire, diventiamo anche amici. Infatti spesso ci capita anche con tutto il gruppo di uscire con dei ragazzi che vengono al concerto, quindi assolutamente siamo diventati, quindi la chiamo più una comunità che un vero e proprio fans club, no? Però ci piace vederla così. All'interno del tuo sito c'è anche un riferimento di dove trovare a colpo sicuro il nuovo disco Da Parte in Folk. Sì, anche lì siamo un po' particolari, nel senso che troverete dei negozi di dischi come la Feltrinelli, le Fnac, e quindi tra virgolette canonici, anche se in realtà per esempio la Feltrinelli in Piacenza ci sta dando un grande spazio, delle grandi opportunità, per esempio presenteremo il disco anche a Parma probabilmente, quindi ci sta dando dei grandi spazi, ma trovate anche dei bar, dei locali, che sono insomma magari quei posti dove le trattorie dove io vado a mangiare spesso, del bar dove magari vado a bere qualcosa la sera, che hanno deciso insomma di mettere fuori un espositore con una striscia di venderlo, quindi è una cosa bella, una cosa sempre molto molto familiare, ma piace molto a noi, piace molto alle persone che ci seguono, e quindi siamo contenti. Anche perché giustamente tu dici, la tua è una musica da teatro, è una musica da grande platea, ma è anche, potrebbe diventare una bella musica da osteria. Pensa così, ma hai azzeccato una cosa importante, nel senso che noi adesso faremo un grande concerto a Capodanno a Piacenza per chiudere diciamo quest'anno, che nel bene e nel male, ma per noi è stato un anno di grandi soddisfazioni, di gran belle notizie, di gran belle cose, anche se ci sono state delle difficoltà a livello anche economico, pure crisi varie, che comunque noi cerchiamo sempre di sconfiggere, tanto che abbiamo deciso a Capodanno di fare una festa a ingresso gratuito, ci sarà un cenone a 20 euro, quindi assolutamente non ci sono soldi da buttare via, ma divertirsi ci si può divertire anche con poco, l'importante è portarsi dietro il cuore, portarsi dietro la voglia di sentire della musica, la voglia di divertirsi davvero. E a parte questo, ti dicevo, faremo questo grande concerto a Capodanno, e poi dal primo di gennaio ci fermeremo, fra virgolette, soprattutto nella zona di Piacenza fino al 31 di marzo. Dico fra virgolette nel senso che nell'attesa dell'evento appunto del Teatro Municipale faremo delle sorte di sorprese, nel senso che andremo nelle tipiche osterie di Piacenza, io e il fisarmonicista, a suonare, però sorpreso, tutto senza fare pubblicità, senza mettere manifesti, ma andremo lì e iniziamo a suonare la nostra musica. È una cosa, insomma, per mantenere viva questa cosa qua, ma per portarci, insomma, poi al grande evento del municipale. Benissimo, quindi è una veramente una cosa molto molto originale, quella bellissima. Dormiamo poco la notte, dobbiamo inventarci queste cose qua. Ma è bello, bella. Anche il buon Francesco un po' di tempo fa ha fatto qualcosa di quel genere. Il buon Guccini, ti ricordi? Sì, fuori porta. Io sono un fan anche di Francesco Guccini, quindi lui è tipo, sai, questo genere qua, che certo, tipo, Osteria delle Dame andava spesso a suonare. Guarda, la mattina del 24, anche lì abbiamo dormito poco la settimana prima e abbiamo pensato di montare tutta la band su un camion e di girare per la città lanciando dei cioccolatini, suonando la nostra musica e facendo gli auguri alla città. La gente l'ha presa benissimo, però insomma le facciamo spesso perché poi ci divertiamo, capito? Certo. Quindi, e si diverte anche chi ci segue, quindi siamo contenti di farle un po' queste pazzie qua. Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Daniele Ronda, la presentazione del suo nuovo disco che si intitola Da Parte in Folk. Allora Daniele, ancora due pezzi, poi torniamo per i saluti, anche se dovremo fare ascoltare molte altre canzoni del tuo disco, ma lo faremo dopo i saluti, magari ci sarà tempo anche per altri due pezzi. Allora, continuando con ordine, un altro pezzo in piacentino, che è Me la Van Dit. Poi c'è anche la traduzione in italiano, poi ancora l'equilibrio, e torniamo poi a commentarla insieme. A dopo. Blu Radio Sera. Facil que peça en xampec. L'havien dit, m'he distès, òvor i caminec. Bon que curs, sumen cura en pe. M'han dit que clalé una dona espatllet, que la mia vida d'aina amorés. M'han dit que distés, que si era l'opaset, e con cura i ferís la pell. Da que molt l'he molt, i de tot i consigui, a da que me io mai ascolté e l'ho fatto il che anche quando sbagliai. Magari me l'avan dit, ma me l'ho fatti stes. Amis, le mie voi da fides, che la pelle farga le tragi. Me distesco cardi, a plus era sicur, e lo propri sapei. Da che molle mondi, da tutti i consigli, da che messo me, io mai ascolte. E l'ho fatto il cœur anche quando ho sbagliato. Magari me l'avan dit, magari me l'avan dit, magari me l'avan dit, ma me l'ho fatti stes. Al sol s'amoca custa che è una stracompliché, che le faci che sapesse in ciampè. Te di più che tu, ma me voi camminè, e se cascarò sarò buon da rielsè. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ti ho vista muovere le mani, quasi a disegnare l'aria, e poi toccarti il viso, quasi a riconoscerti. Ti ho vista che ridevi con intorno gli angeli, e poi ti ho vista piangere se mi allontanavo un po'. Ma adesso dormi vicino a me, che i tuoi sogni fragili proteggerò. Ogni tua parola ora è la mia verità, e i tuoi piccoli passi sono il mio equilibrio. Da ora non invecchio, cresco e tu cresci con me, e delle tue necessità vesto le mie abitudini. Ma adesso dormi vicino a me, che i tuoi sogni fragili proteggerò. Il sole con un raggio ti apra gli occhi, e aspetto di sentirti, ma ora dormi. Blu Radio Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato altri due pezzi di questo Da parte in folk con Mela Van Diet, L'Equilibrio, e abbiamo ancora con noi in collegamento telefonico Daniele Ronda per commentare questi pezzi da questo disco così importante. Allora, Mela Van Diet è molto diverso dall'Equilibrio, anche perché l'Equilibrio è una nina nanna per Nicole. Come, sì. Come si dice tra parentesi nel titolo maestro. Sì, e praticamente Mela Van Diet parla un po' di quei consigli che le persone, anche che ci vogliono bene, che a fin di bene ci danno, ma che noi assolutamente non seguiamo mai, spesso anche sbagliando, perché spesso ci sbagliamo noi, ci andiamo a sbattere la testa, ci andiamo a far male. Anche se io sono convinto che, come dice il pezzo, magari me l'avevano detto ma me l'ho fatto stesso, magari me l'avevano detto ma io l'ho fatto lo stesso, sì. Magari a volte ho sbagliato, ma purtroppo, per fortuna, è l'unica maniera che abbiamo per provare a seguire i nostri sogni, per tentare di farcela. Quindi spesso il prezzo a pagare è anche sbatterci la testa, sbagliare, ma credo che poi alla fine valga sempre un po' la pena provarci. Per quanto invece riguarda l'Equilibrio, è una ninna nanna, come dicevi tu, e sai, quando è uscito il disco un sacco di gente mi ha detto: ma non, come, non sapevo che tu avessi una figlia. In realtà lo dico, non ho una figlia. Nicole è la bambina di, è un po' una mia nipotina acquisita, è la bambina di Johnny, mio manager. E la storia di questa ninna nanna è un po' particolare, perché eravamo in vacanza insieme e dopo qualche mese sarebbe stata la data del battesimo appunto di Nicole. E lui mi ha detto, quasi scherzando, mi fa: ma cosa regalerai a Nicole per il battesimo? E io, trovandomi un po' alle strette, ho detto: ma avendo un'idea per una ninna nanna, ancora però in stato embrionale, dissi, e le ho scritto una ninna nanna. bello come regalo, decisamente bello. Il problema è che non era ancora pronta questa ninna nanna, quindi poi in realtà mi è venuta abbastanza naturale, perché probabilmente era una cosa che sentivo di dover dire, di cui dover parlare. E la cosa anche lì che mi ha fatto piacere è che molte mamme, perché poi è stato messo un pianoforte il giorno del battesimo, io l'ho suonata proprio mentre si festeggiava, insomma. E la cosa che mi ha colpito particolarmente è che molte mamme, anche molti papà, insomma molti genitori, mi hanno detto che se io ho avuto questa esperienza di avere un figlio, insomma, se io avevo un bambino, se perché si sentivano molto molto vicine a queste parole, le sentivano molto vere. E quindi credo sia una bella soddisfazione, credo che quando questo capita vuol dire che sei andato magari a cogliere anche cose che non hai vissuto. Guarda, io chiamo questo disco un po' il mio reality show, nel senso che io non sono andato a andare su un'isola a non mangiare, soprattutto perché non riuscirei a non mangiare per più di 4 ore e come non sono andato ad andare in una casa ripreso dal mattino alla sera dalle telecamere. Quindi faccio musica, è il mio modo per raccontare la mia vita, e molte di queste esperienze mi sono capitate in prima persona, altre mi sono successe, mi sono passate talmente vicino da toccarmi. Credo che i bambini sono una di quelle cose lì, nel senso che ho provato a pensare cosa possa lontanamente voler dire essere un genitore e mettere al mondo una vita, e per fortuna qualcuno mi ha detto che in un certo senso ci ho preso, insomma, che ci ho azzeccato, e quindi la cosa mi fa un gran piacere. Scusami Daniele, la struttura del disco nuovo del 2012 sarà improntata come questo disco anche musicalmente, o ci saranno delle variazioni? In realtà sarà un po' diverso, ma nel senso che sarà probabilmente ancora più folk, nel senso che andranno a affrontare, cioè andrò a provare a sperimentare ancora altre ritmiche, altri suoni, per esempio la cornamusa, ho intenzione di mettere anche ancora altri suoni diversi, e poi ci sarà più dialetto. Quindi le grosse differenze principalmente sono queste. Bene, allora dovevamo farti all'inizio trasmissione una domanda, ma visto che nella copertina del disco figura nella parte finale, oserei chiederti: da parte in folk, come mai questo da parte? Perché tu usi sempre questo, prendiamo questo e mettiamolo da parte. Bravissimo, perché io sono convinto, come dico nel disco, che da parte non mettiamo solo, come alcuni dicono, le cose che non ci servono più, no? Tu dici questa cosa non mi serve più, la metto da parte. In realtà mettiamo da parte anche le cose che vogliamo proteggere e che spesso sono le cose a cui teniamo di più. E quindi questa è una delle ragioni perché da parte, perché questo disco io me lo terrò sempre da parte, sarà sempre qualcosa che per me avrà segnato un momento della mia vita importante. E per fortuna, è caso che, la fortuna, il lavoro vuole che questo ci stia portando grandi soddisfazioni, ma comunque sia, anche se la cosa non fosse andata così, anche se le cose non stessero andando così bene, come per fortuna in realtà poi stanno andando, questo disco sarebbe comunque rimasto sempre nel mio cuore e avrebbe un posto da parte, ma sempre presente. In realtà poi per fortuna è da parte, ma molti, molti, molti hanno la voglia di ascoltarlo e di sentirlo. Bene, allora noi ringraziamo Daniele Ronda per averci dedicato il suo tempo, anche se la sua venuta in radio è stata fermata dalla febbre. Il periodo è quello giusto per pigliare qualche malanno, però naturalmente gli abbiamo strappato già una promessa per venirci a presentare il disco targato 2012, così avremo modo di approfondire ancora di più anche questo da parte in folk. Assolutamente sì, io ringrazio voi perché non è da tutti avere la voglia di mettere su un disco nuovo, di ascoltarselo in radio dall'inizio alla fine, di parlarne, e quindi la cosa mi piace molto e voglio ringraziarvi per il tempo che mi avete dedicato. Voglio ringraziare i ragazzi che ci hanno ascoltato, le persone che ci hanno ascoltato, voglio rinnovarvi la promessa assolutamente di trovarci lì nella vostra radio, a Blu Radio Veneto, per suonare anche dal vivo, perché è una cosa che non... importante, che non può mancare assolutamente, e quindi grazie mille a tutti voi, vi auguro una buona serata, buone feste e un buon anno assolutamente. E noi ringraziamo, oltre a Johnny Malavasi che è stato il nostro gancio per contattarti, Daniele, ringraziamo anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco che ci ha permesso di fare questa trasmissione con te. Benissimo, allora Daniele, a presto e buon folk. Buon folk. Grazie Daniele, mille, buon assolutamente folk. Fuori. Suonare sempre dal vivo, Daniele, tuo motto. Assolutamente sì, potete contarci. Ok. Benissimo, allora ciao, noi ringraziamo Daniele per essere stato con noi e ci ascoltiamo un ultimo pezzo del suo disco, si intitola Ora Credo, poi noi torniamo per i saluti. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Certezze, di essere pagato per quello che ho speso, ho creduto non servisse l'impegno, perché? Perché tanto un disegno c'è già. Ma ora credo che non basta mai, che la fortuna devi andarla a cercare, di certo c'è solo il cielo, di essere pagato non ci devi contare, un disegno puoi cancellarlo, puoi rifarlo, cambiarmi. Fosse scoprire quello che è intorno, e ho confuso la notte col giorno, ho sprecato un momento perfetto e aspettato seduto da solo per poi non vederti arrivare mai. Ma ora non mi accontento più ed il mondo lo scopro davvero, della notte vivo le ombre e del giorno la luce sereno, e così non aspetto più. Vuoi puoi venirmi a cercare? Tu vieni a cercare. Yeah. sai già è più di ciò che speri. E la vita che sembra distratta ti osserva da fuori. Ora credo che quando c'è un sogno non puoi abbandonarlo, perché resta nascosto nel cuore, diventa rimpianto. Perché tempo, occasioni sprecate quasi mai ti ritornano indietro. E se resti a guardare da dietro quel vetro appannato, hai perso. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Maurizio, ti aspettavi un finale un po' diverso, che ti vedevo riprendere un, sì, un giro, no, forse un di qualcun altro. Assolutamente. Sì. Beh, un disco molto bello, molto interessante, è decisamente sì. folk, e come ha detto giustamente Daniele, dà la sensazione del popolare, ma il popolare di alta scuola, secondo me, non di bassa scuola. Certo. Assolutamente. Abbiamo ascoltato questo pezzo che si intitola Ora Credo e che è tratto appunto da questo lavoro di Daniele Ronda and the Folk Club, Da parte in folk. E abbiamo scoperto appunto con Daniele il perché di certe canzoni, il perché di certe sonorità e queste belle ballate quasi tanghera. Sì, esattamente, il folk è stato sdoganato sì. dalla assolutamente, ormai un folk si sente dappertutto, è sempre fatto bene. Beh, Daniele Ronda ha fatto un bel disco, c'è poco da fare. Sì, poi anche visto le partecipazioni importanti, sì, c'è Davide Van der Sfloss, poi c'è ancora Danilo Sacco. Sì, per domani, fino a domani il cantante dei Nomadi. Sì, da domani è un cantante dimissionario, esatto. lo sanno ormai molti, c'è qualche fan che protesta, anzi forse più di qualche, però naturalmente è una scelta assolutamente personale. Non è il primo ad averla fatta, no? Sono stati in molti, quindi vuol dire che c'è bisogno anche di trovare un qualcosa di nuovo in questo. Insomma, Danilo Sacco ha dimostrato sempre di essere all'altezza delle situazioni, poi i Nomadi l'hanno portato in giro per tutta Italia, quindi insomma è un artista con la A maiuscola pure lui. Benissimo. Allora, Maurizio, prima di salutarci, visto che sono le 22:33, ricordiamo anche un appuntamento per domani sera. Sì, domani sera avremo una band di Modena, una band di rock, di sano rock, i Facsimile, vengono da Modena, quindi Emilia Romagna. Ci sarà da divertirsi con del bel rock, anche non prettamente acustico, tra l'acustico e l'elettrico, al 90% acustico, però ci sarà qualche effetto elettrico, mi dicono, mi hanno detto i ragazzi che ho sentito ieri. Qualche anteprima. Allora, all'interno del nostro sito bluradioveneto.it potete vedere ancora nel dettaglio quella che sarà l'intervista mini concerto di domani sera, per la presentazione appunto di questi Facsimile, o Facsimile come si vogliono chiamare, con il loro lavoro che si intitola Meglio Nudi. Sì, un EP di 7 pezzi. Molto bravi. E dopo, vabbè, l'ascolterò. Sì. No, mi fa ridere il titolo, ma li vedo molto molto colorati, sì, all'interno vivaci, divertenti, secondo me, musicalmente parlando. Ci sarà Michele Toson alla regia e Roberto Baldi che darà una mano dal punto di vista tecnico. Benissimo. Allora, abbiamo detto tutto per questa sera, andata in una maniera un po' diversa, comunque bene. Vi ringraziamo per essere stati con noi e allora l'appuntamento domani sera. Ad ora vi lasciamo con dell'ottima musica rock da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Un saluto grande e caloroso, ciao, buona serata, buonanotte a tutti, ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.